Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, nuovo appuntamento con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi torniamo ad occuparci di prodotti di lusso e consumatori di riferimento, perché segna il passo lo shopping dei turisti stranieri in Italia. A livello globale il mercato dell'alto di gamma tiene, per così dire, anche se frena rispetto alla crescita a doppia cifra registrata fino al 2012, e cambia in parte la mappa dei clienti su cui scommettere, con i russi che iniziano a rallentare. Cosa fare mentre mariti, compagni ed amici guardano le partite dei mondiali? Semplice, shopping online. È la strategia di una realtà significativa dell'e-commerce che, in ottica multicanale, punta alle spettatrici annoiate. E poi sapete che cos'è il retailtainment? Retail e entertainment insieme, shopping e divertimento. L'ultima frontiera, Las Vegas, che punta anche ai non giocatori. Seconda parte, infine, tutta dedicata all'Italian Factor. Siamo arrivati ai casi aziendali esemplari. Oggi raccontiamo e analizziamo la storia di una vera icona dello stile italiano. È un taccuino conosciuto in tutto il mondo. I suoi primi fan sono stati gli studenti dell'MIT, i giovani più tecnologici al mondo. Oggi è amato da una tribù sempre più vasta e trasversale. Se non lo avete ancora indovinato, lo scoprirete tra pochissimo. La borsa della spesa. Monte Napoleone, il salotto di Milano, ritrovo del signore dell'elite della città, la mia Monte Napoleone, riverenze e baci a mano, il vermouth l'americano, appuntamento nel bar. Effetto nostalgia nelle riflessioni sullo shopping di lusso nel nostro paese. Calano gli acquisti dei turisti stranieri, meno 3% nei primi tre mesi del 2014, secondo Global Blue, azienda leader nel mondo sul fronte del tax free, una flessione su cui influisce la crisi russa con le tensioni politiche e la svalutazione del rublo. Lo shopping dei russi infatti registra un calo dell'11%, segno meno anche per i giapponesi, in calo del 13%. A compensare in parte ci sono i cinesi, più 16%, e le vie milanesi del lusso, via Monte Napoleone su tutte, riflettono questa tendenza. Secondo i dati Altagamma, i consumi mondiali del settore registrano comunque il segno positivo. Per il 2014 si prevede una crescita intorno al 6%, un dato positivo dunque, anche se lontano dalla doppia cifra registrata fino al 2012. I consumatori cinesi, che detengono, pensate, il 30% del consumo di prodotti di lusso nel mondo, restano i più rilevanti sia in Italia che all'estero. Nella mappa dei cosiddetti top spender, però, si evidenziano alcuni spostamenti significativi. Siamo entrati nella fase new normal, spiega Claudia D'Arpizio di Bain & Company, che ha condotto il monitor alta gamma insieme alla fondazione. Il settore, dopo, diciamo così, una fase di forte ripresa dalla crisi del 2008-2009, e che avevamo definito quasi una ripresa bulimica dei consumi molto spostati sulla Cina e la grande crescita del consumatore cinese, sta attraversando una fase di stabilizzazione di questa crescita. La Cina cresce ma a tassi più moderati, i cinesi continuano a rappresentare la prima etnia di consumatori del lusso, comprano in tutto il mondo, quando viaggiano, quando sono fuori per studiare, quando sono fuori per business, ma comunque è una crescita che si sta stabilizzando. I mercati maturi hanno ripreso una crescita, diciamo così, sana, che possiamo chiamare organica. Quasi tutti i mercati crescono e hanno dei segni positivi senza particolari exploit. Unica eccezione un po' è il consumatore locale italiano, che ancora è un po' in crisi. Non c'è un'altra Cina all'orizzonte nel breve periodo, quindi quindi anche se in prospettiva ci immaginiamo l'Africa, l'India come possibili bacini di grande crescita, nei prossimi 4-5 anni il new normal per noi sono tassi di crescita del 4-6% a cambi costanti, che sono comunque delle crescite importantissime per un settore retail, quindi sicuramente performance molto importanti rispetto a qualsiasi altro retail business a livello mondiale. Il consumatore di riferimento in Italia è per un buon 50% il turista. L'Italia ha ancora un forte mercato locale, perché l'Italia, diversamente da altri paesi europei, ha il consumo di lusso abbastanza, diciamo così, distribuito anche in città di provincia ricche, sia al nord che al sud. Sicuramente questo consumatore è meno brillante che in passato, ma c'è e rappresenta circa il 50% del mercato del lusso, è un po' in contrazione, mentre i turisti sicuramente rappresentano la parte più dinamica. Sono essenzialmente russi in Italia, quindi anche qui una piccola punto di domanda sull'impatto della crisi russa in questo momento, ma anche la capacità di accogliere i cinesi è molto migliorata, e quindi i flussi di cinesi sono sicuramente un driver molto forte di consumo in Italia. Put your flags up in the sky, in the sky. Shut the line, show the world where you're from. Show where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. I mondiali di calcio, come tutti i grandi eventi televisivi ormai, saranno un'esperienza multicanale. 9 italiani su 10 seguiranno le partite in TV, e molti di loro, più o meno il 30%, davanti allo schermo, smartphone o tablet in mano, leggeranno e posteranno commenti sui social network e, perché no, faranno anche shopping online, come spesso accade quando ci si mette sul divano. Ecco perché un colosso delle vendite online come Vanprivé ha deciso di indagare l'attitudine delle donne europee, che sono ovviamente il target di riferimento, nei confronti dell'evento mondiale. Il 77% di loro, emerge dalla ricerca, preferirebbe fare shopping in rete piuttosto che guardare le partite, percentuale che sale all'80% per le italiane, battute però dalle olandesi e dalle francesi. Andreas Schmeidler, Country Manager Italia di Vanprivé, buongiorno. Buongiorno a tutti. Un'occasione da non perdere per voi, insomma. Potremmo dire che la vera sfida è tra le mura di casa. Come riuscire a motivare le persone che seguiranno gli eventi dei mondiali a acquistare contemporaneamente su vanprivé.com. Ecco, il 40% delle europee dichiara di fare shopping online mentre guarda una partita di calcio. Beh, bisogna partire dal presupposto che il 91% degli italiani intanto dichiara che seguirà l'evento. E questo è già una base su quale iniziare a studiare le cose. È ovvio che le donne avranno un ruolo, diciamo, più secondario sui mondiali di calcio, ed è un fatto che noi abbiamo già riscontrato anche durante i campionati europei di 2 anni fa, dove abbiamo avuto ai tempi già un picco di acquisti femminili durante le partite della nazionale italiana piuttosto che delle altre nazioni. Ecco, la vostra ricerca è molto divertente perché rivela anche i desideri reconditi delle mogli e delle compagne costrette, tra virgolette, insomma, a subire la tortura dei match dei mondiali. Fra i desideri più reconditi delle compagne: rivelare il finale della partita oppure far saltare la corrente, ancora fare shopping online con la sua carta di credito. Questa è la preferita, insomma. E soprattutto sul tablet, e soprattutto sull'iPhone, soprattutto utilizzando quella che noi chiamiamo oggi la multicanalità, o meglio dirsi l'e-commerce, che ci permette a noi di avere da un lato un picco di acquisti serali in contrapposizione a quelli che sono gli acquisti normali che i membri di vanprivé.com, che oggi sono più di 21 milioni a livello europeo, fanno, concentrando gli acquisti specialmente tra le 7 e le 10 del mattino. Grazie all'e-commerce questo dato è stato completamente rivoluzionato, perché abbiamo visto che specialmente sul tablet, iPad specialmente, gli acquisti vengono concentrati tra le 9 e le 11 di sera. Bisogna anche dire che noi siamo stati tra i primi a lanciare l'e-commerce a livello di acquisti online, e oggi ci sta premiando in maniera esorbitante. Basta pensare che più del 40% degli acquisti parlo di una società che fa 1.600.000.000 di euro, pertanto più di 600 milioni vengono acquistati dall'e-commerce. Pertanto il lato di fatturato è un lato molto molto importante. Lato informazioni marketing, come ho detto, ci porta anche a fare delle riflessioni come andare a utilizzare anche un popolo che normalmente consideravamo un popolo più che altro mattutino, più che altro che acquistava d'impulso, mentre esistono specialmente delle motivazioni per le quali specialmente il sesso femminile acquista più di sera, e ci fa fare anche delle riflessioni su quale vendite proporre anche la sera. Non per altro abbiamo sviluppato anche molte vendite che vengono aperte a partire dalle 10 di sera fino alle 5 del mattino, tipo i sex toys. Beh, qui a proposito di donne annoiate si potrebbe aprire una bella riflessione fra calcio e sex toys. Questa è la prossima volta. Va bene. Grazie ad Andrea Schmeidler per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Codice a barre di Cristina Lazzati. Las Vegas, gioco d'azzardo e perdizione, parco giochi per adulti. Link, l'ultimo nato della celeberrima cittadina del Nevada, sceglie la busta 3 e punta sullo shopping. Infatti è un parco commerciale nato per la gioia dei pedoni, storicamente dimenticati dagli sviluppatori immobiliari della città, e per democratico applauso sta diventando la nuova strip di Las Vegas, ma con molti ingredienti in più. Intanto è all'aperto e ha un'offerta di negozi e spazi unici in città. Infatti Link è pensato per andare incontro alle esigenze di un target più urbano tra i 20 e i 45 anni, che oggi va a Las Vegas sì per il gioco e il divertimento, ma non ama passare tutto il tempo tra grandi hotel e casinò. Link si è ispirato quindi ai più famosi quartieri delle città stelle strisce, in particolare al Meat Market di New York. Ma come d'obbligo a Las Vegas non ha rinunciato alla sorpresa e ha creato la ruota panoramica più grande al mondo, e la sua shopping experience è fatta per sbalordire. Un esempio, il Polaroid Bar, che affianca il Polaroid Museum. Storia e innovazione insieme per un luogo che, oltre a contemplare tutte le novità del brand, offre la possibilità di un'esperienza immersiva. Infatti è possibile portare le proprie foto e utilizzare uno dei tanti computer a disposizione per elaborarle e poi eventualmente decidere se stamparle, scegliendo tra centinaia di formati e materiali diversi, o semplicemente postarle sui social network. Infine non manca l'area per realizzare i selfie, che partono poi in automatico ai fan Facebook di Polaroid. Poco più in là Sprinkles, che offre cupcake in tutte le versioni e in tutti i colori. E se l'ora è tarda, ma Las Vegas non è mai tardi, c'è un cup dispenser lungo la strada per un servizio veloce. Se si pensa a un drink, la passione di Daiquiri. Ecco Purple and Fun, un concept store interamente dedicato al cocktail a base di lime, zucchero e rum, con le sue mille varianti. Quindi non solo bicchieri e caraffe dalle fogge e colori più strani, ma anche una sorta di mixer a parete dove ognuno può decidere sapore e colore del proprio drink. In sintesi, Link rappresenta un'evoluzione del retail entertainment che si allontana dal mero gioco e si avvicina alla shopping experience, e la città delle luci e dei lustrini apre così simbolicamente le sue porte anche ai non giocatori. Essere e avere. Evitiamoci le finte illusioni, le finte delusioni, la certezza di essere lì. Di ritorno dall'ennesima vacanza a Parigi. Italian Factor. Nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'acceleratore, del moltiplicatore dell'eccellenza italiana, in compagnia del nostro ospite fisso Francesco Morace. Ben ritrovato Francesco. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati, per così dire, alle stazioni di servizio del nostro viaggio, perché dopo le virtù, i fattori e gli elementi di attivazione dell'Italian Factor siamo ai casi paradigmatici, casi aziendali di successo che dimostrano come sia possibile comunicare, esportare, consolidare in un prodotto, in un format, l'eccellenza del Made in Italy. Francesco, di quale caso ci parli oggi? Oggi parliamo di un caso eclettico. eclettico, nel senso che Moleskine non è né moda né design né alimentazione, ma è un po' tutte queste cose insieme, perché il grande successo di questo taccuino inizialmente e poi di una famiglia di prodotti è legata all'idea iniziale di dare voce alla creatività, partendo dalla creatività letteraria, perché il termine Moleskine viene inventato da Bruce Chatwin in un suo libro, Le vie dei canti, in cui parla di questi taccuini che sono realizzati da una legatoria francese e venduti da un cartolaio dove lui va sempre. L'idea italiana è quella di valorizzare questo nome, quindi viene brevettato e da qui nasce la storia straordinaria di successo di questo taccuino. Sentiamo allora che cosa ci ha detto Maria Sebregondi, che è l'ideatrice negli anni 90 dei taccuini Moleskine, oggi responsabile del brand. L'idea è stata quella soprattutto di riprodurre questo oggetto da una parte con la sua storia all'interno, quindi con questa grande storia raccontata da Chatwin sull'uso di questo genere di taccuini da parte delle avanguardie artistiche letterarie della prima metà del Novecento, quelle avanguardie che si ritrovavano a Parigi, Hemingway, Picasso, Gertrude Stein, la Shakespearean Company, la Lost Generation, diciamo. Quindi l'idea di mettere tutta questa storia nella tasca del taccuino, in modo che questo piccolo oggetto diventasse un libro ancora da scrivere, il libro che scrivi tu avendo il sostegno di una grande tradizione alle spalle. È diventato in tutto e per tutto un oggetto iconico. La forza che viene riconosciuta da molti osservatori a Moleskine è il fatto di essere comunque sopravvissuto a un'era di transizione significativa dalla carta ai bit, quindi dall'analogico al digitale. È un tema di cui si parla molto spesso anche ad esempio per la crisi dell'editoria. Ecco, Moleskine ha saputo perfettamente convivere con l'era digitale. Qual è stata la forza, il segreto della vostra strategia? Ma forse il segreto è quello di guardarsi intorno e di cogliere effettivamente come ciascuno di noi vive. Viviamo in questo continuum analogico digitale, non c'è un'opposizione, in ogni momento i nostri gesti combinano l'alta e la bassa tecnologia, momenti di conversazione completamente digitale, momenti invece di incontro fisico con le persone. Anche questa nostra stessa intervista ha alcune caratteristiche, diciamo, completamente così, molto, molto tecnologiche, eppure attraverso un mezzo, se vogliamo, no, antico come la radio. È lo stare dentro a questa continuità che ci ha permesso di pensare a questo oggetto quando l'abbiamo lanciato. Era il momento in cui cominciavano a essere sempre più presenti questi piccoli oggetti della tecnologia portatile. È stato il momento dell'esplosione dei telefoni cellulari, all'epoca dei palmari e soprattutto dei primi laptop, e l'averlo immediatamente proposto non come un oggetto retro o nostalgico, ma come un oggetto complementare alla tecnologia portatile, complementare anche in termini di estetica. Quindi abbiamo curato il design in maniera diciamo veramente quasi ossessiva, in modo da poterlo far convivere con questi altri oggetti neri, rettangolari, con gli angoli arrotondati che ci circondano anche dal punto di vista tecnologico. Diciamo che appunto è questa complementarità, è questa disponibilità di poter passare da un oggetto all'altro che ha funzionato e che diciamo ha anche fatto parte del nostro successo. A proposito del lancio, si è trattato di un lancio senza pubblicità, senza campagne pubblicitarie importanti. Ecco, è un prodotto che si è in qualche modo imposto sul mercato quasi da solo. Per quegli anni una vera e propria scommessa, gli anni in cui sulla pubblicità per il lancio di un prodotto si puntava molto. Sarebbe più facile o più difficile ora partire da zero e lanciarlo? Ma diciamo che forse sarebbe per un verso più facile, perché ci sono tanti più canali di allora. Oggi c'è un panorama molto più vasto e un territorio molto frequentato. Allo stesso tempo possiamo dire che oggi c'è tanto affollamento e ci sono tante voci, mentre allora diciamo si era in pochi e soprattutto quei pochi erano effettivamente degli influencer, delle persone che ispiravano nuovi comportamenti. E il fatto che siano stati proprio i giovani techie guys dell'MIT di Boston a sposare per primi questo oggetto e a farne un oggetto di culto, oppure i designer e gli architetti che necessariamente usavano tecnologie avanzate a scoprirlo come strumento indispensabile per il loro lavoro creativo, bene, questo ha fatto una possibilità di influenza molto vasta e una crescita spontanea e organica del nostro pubblico online. Le voglio fare un'ultima domanda, sono molti personaggi famosi, fan del brand, a chi sogna di vedere in mano un Moleskine? Diciamo, non so, alla persona che fa funzionare il teletrasporto o all'equipe che realizza la fusione fredda? Al costruttore della macchina del tempo, non so, ecco, mi piacerebbe che fosse in mano a persone che nel presente e nel futuro sono capaci di immaginare grandi cose anche sul piano tecnologico. Francesco, una delle parole chiave di questo racconto aziendale, a mio avviso, è il tempo, un oggetto recuperato dal passato ma reso attuale anche in un futuro in cui la scrittura, la carta rispetto al digitale venivano, vengono tuttora date per spacciate. Sì, e la cosa molto interessante è che si dimostra attraverso il grande successo di Moleskine la possibilità di integrare la scrittura analogica e quindi un'esperienza molto antica e diciamo di tradizione con il mondo digitale, perché poi ci sono comunità di milioni di persone che raccontano quello che hanno scritto sulle Moleskine o che considerano comunque questo oggetto una sorta di talismano, di portafortuna, di poche, quindi da tasca, da portare dietro come compagno di vita. Ecco, quindi la dimostrazione è che il digitale e l'analogico possono convivere tranquillamente. Un bel esempio di come la creatività italiana sappia interpretare e fare prodotto i nuovi stimoli, le nuove abitudini e anche le nuove esigenze di vita e di consumo. Assolutamente, e anche l'idea che il design non è solo design di prodotto, noi lo definiamo il design thinking, no, all'italiana, e quindi è anche nei processi sia di vendita che di integrazione dell'idea iniziale, no? È proprio lì che sta questa capacità e necessità di moltiplicare il valore di un'intuizione creativa. In Moleskine questo elemento è molto evidente ed è alla portata di tutti, quindi è anche un oggetto accessibile, proprio come tante volte abbiamo detto la creatività italiana è. Grazie a Francesco Morace, grazie a Valeria Bernardi in regia, pagina Facebook di Essere Avere e pagina programmi di Radio 24 per riascoltare o scaricare la puntata e cliccare sui nostri contributi aggiuntivi in attesa di risentirci sabato prossimo. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.